Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti in regia, la parte tecnica c'è Peter Bescapè, prontissimo come d'altronde Laura Vanossi in redazione. E allora via con i temi del nostro sommario. Sogni, paure e desideri delle nuove mamme. Attività fisica per crescere insieme. Nonni d'Italia, c'è un numero verde per voi. Oggi parliamo di maternità, in particolare ci interesseremo ad una trasformazione molto profonda che sta interessando il mondo delle nuove mamme. Nuove mamme, sì, le chiamiamo così perché così le ha anche fotografate una ricerca che oggi ci racconterà Valeria Covini, direttrice di Insieme di RCS Media Group, che è già qui in studio con noi. Buongiorno, ciao Valeria. Ciao, buongiorno a tutti. Ma con Valeria abbiamo chiamato anche due esperti del mondo dei genitori e non solo, oserei dire del mondo delle relazioni familiari. Bene, uno gioca in casa, è Alberto Pellai che conduce Insieme a me Questa casa non è un albergo, quindi oggi e domani, Alberto. Certo, infatti stavo dicendo che uno gioca in Questa casa non è un albergo. È vero, ma in linea al telefono con noi è tornata a trovarci e mi fa molto piacere la professoressa Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica e scrittrice. Professoressa, bentornata e buongiorno. Grazie, bentornata, sono molto contenta di essere qui. Allora, abbiamo molte cose da dire e anche molte cose da fare insieme. Per dare il là, io ascolterei intanto per cominciare una nuova mamma. Si tratta di Ambra Angiolini, che è stata intervistata proprio in occasione della presentazione dei dati di questa ricerca di cui vi parleremo nel corso della trasmissione. Allora, sentiamo un po' come si è raccontata ai nostri microfoni. Insomma, si gestisce che alla fine le cose bisogna farle, per cui magari, non so, si azzerano un po' le abitudini di prima e si cerca di andare incontro ai bisogni dei bambini e poi di incastrare durante la giornata tutti gli impegni, le cose che bisogna fare per forza. Ci si dà una mossa, almeno io sono dimagrita, sono diventata più giovane. Ho scoperto di avere una forza che è 6 volte quella che avevo prima, dove invece mi sentivo sempre un po' più addormentata, stanca, senza motivo poi, perché in realtà vivevo per me e basta. Certo. Però insomma, nonostante tutto questo, riconosco che la sera alle 9 è naturale che io sia morta, distrutta e voglia andare a dormire, però con una grande soddisfazione. Non devo darmi un giudizio. Diciamo che attraverso quello che vedo essere i miei bambini so che sto facendo un buon lavoro. Allora, ci si dà una mossa, gli impegni sono tanti, mamme acrobate sono state anche definite, ma Valeria, Ambra ci dà un profilo abbastanza in sintonia, attendibile delle nuove mamme. Rispetto a quello invece che avete scoperto voi con la vostra ricerca, si discosta, è simile? Direi che è assolutamente simile. Perché come Ambra, le mamme accettano di essere mamme, cioè il loro ruolo, per fortuna oggi con meno sensi di colpa di quanto succedeva solo qualche generazione fa. Per esempio, il 60% di queste mamme ci ha detto che si confronta con le altre mamme e non teme giudizi da loro, e il confronto e la condivisione sono un po' parole chiave di queste nuove generazioni di mamme rispetto a quelle di un tempo, dell'altra generazione. Esattamente. Anche perché siamo un po' state allevate con la mamma non sbaglia mai, poi noi abbiamo capito che anche le mamme sbagliano, noi diventando mamme iniziamo a dirlo subito. Esattamente. E ci confrontiamo per tenerci un pochino sul morale. Ma infatti, questa icona della mamma perfetta, finalmente la stiamo facendo fuori. Certo. Ecco, e credo che queste mamme, e Ambra è proprio in questo caso perfetta nel dire si giocano, sono un po' flessibili, perché come tu dicevi, acrobate, devono trovare proprio come acrobate nuovi equilibri, no? E devono, per tenere dentro tutto, il tutto è il lavoro, che è più del 50% di quelle mamme nostre intervistate, ovviamente lavora, il proprio partner, certo. E poi ovviamente figli. E poi Valeria, dintorni. Ci sono lavori e lavori, lavori che danno una certa autonomia anche economica alle donne, certo. Alle mamme, lavori invece che fanno comunque tirare la cinghia e costringono comunque, no, a conciliare i due ruoli di mamma, di moglie, anzi tre, e di donna che lavora. Professoressa Veggetti Finzi, anche lei ha avuto modo di consultare i risultati di questa bella ricerca, grande, complessa, che fotografa questa nuova realtà. Cosa l'ha colpita dal suo osservatorio privilegiato? Ma innanzitutto due cose, guarda, innanzitutto la serenità, il fatto che queste mamme si dicano tutto sommato, nonostante la fatica, l'equilibrismo, tutto quello che volete, si dicano sostanzialmente soddisfatte del loro ruolo. Sì. E come diceva Valeria, questo è molto diverso dalle mamme degli anni Ottanta, con sensi di colpa. Perché? Perché privilegiavano la carriera, erano le famose donne che donne in carriera o donne in corriera, come dicevano i maligni, che avevano messo al primo posto la carriera. Queste donne invece sono più equilibrate perché cercano di mediare, di dividersi tra famiglia e lavoro, senza prevaricare rispetto ai bisogni di figli. Non hanno meno sensi di colpa sicuramente, ma perché? Io aggiungo un'altra cosa, perché alle loro spalle ci sono dei nonni efficientissimi. In questi anni i nonni hanno fatto dei passi avanti al centro della famiglia, da icone come erano, che stavano sullo sfondo, un po' forme di nella quadreria di casa, adesso sono diventati dei protagonisti, e le nuove mamme sono serene anche perché sanno che possono contare su nonni validi, efficienti, disponibili e generosi. E parleremo anche di nonni, parlando naturalmente di mamme. Tra l'altro la professoressa Veggetti Finzi ha scritto un libro, Nuovi nonni per nuovi nipoti, la gioia di un incontro, quindi spazio anche ai nonni. Ma mi chiedevo, professoressa Veggetti Finzi, non è che questa maggiore serenità delle mamme deriva anche dal fatto che si diventa mamme un po' più tardi rispetto, per cui siamo anche più mature? Sono, c'è più tempo per il desiderio. Una volta ci si sposava e quasi appunto cadeva tra capo e collo la maternità come conseguenza immediata del matrimonio. Ora ci sono degli anni di attesa, di aspettativa, un po' di batticuore, questi figli verranno o non verranno, non sarò sterile, in modo che sono bambini più che mai desiderati, direi desideratissimi, e le mamme sono anche appunto più in grado di sacrificarsi, sanno di aver vissuto per sé, come diceva Ambra, vivevo solo per me, quindi hanno passato degli anni magari da singole, nel monoappartamento, quindi si sono cavate la voglia di accudirsi, e il bambino nasce veramente quando è il momento. Il problema poi magari si pone con il secondogenito, perché il secondogenito è il bambino problematico, ce la farò, c'è posto per lui, mi rovinerà la carriera e mi sento in colpa se lo metto al mondo, però mi sento in colpa anche se non lo metto. E mentre il primogenito direi che è sicuramente una conquista, dove la felicità prevale di gran lunga rispetto a tutte le apprensioni. Alberto, nuove mamme, anche nuovi papà. La professoressa Veggetti Finzi ci ha detto ci sono anche dei nuovi nonni, di cui parleremo. Ma spesso si sente dire che le nuove mamme spaventano i papà. Perché io vorrei capire da te, perché ci sono anche dei papà che tendono, no, per incontrare le loro compagne, per supportarle e sostenerle, a fare i mammi. Ecco, allora, queste nuove mamme, queste vi nuove fanno mamme paura, sono troppo preparate, vi forgiano, vi educano oppure vi intrappolano? Ma guarda, io credo, anche leggendo i dati della ricerca, una cosa che mi ha molto colpito è che le nuove mamme si considerano molto positive, proprio scelgono per sé l'aggettivo solare. E se una nuova mamma è una mamma che si sente solare, positiva, entusiasta, è quasi certamente perché ha di fianco a sé anche un compagno che la sa accompagnare, sostenere, che non la sostituisce. Se penso ai nuovi papà, io credo che abbiano fatto un bel po' di salti avanti rispetto ai papà del passato. Un tempo i papà del passato dovevano andare al lavoro, le mamme stavano a casa e si occupavano dei figli. Poi c'è stata un po' la rivoluzione, per cui i papà hanno dovuto comparire sulla scena genitoriale e si sono arrangiati un po' come riuscivano e potevano. Secondo me i nuovi papà non devono stare sulla scena genitoriale, ma vogliono stare sulla scena genitoriale, hanno proprio voglia di scoprire il papà che c'è dentro di loro, che è un papà tutto da inventare, perché in molti casi non hanno sperimentato un papà così emozionale, così affettivo, così attivo, però un papà bellissimo da incontrare, sia per te che sei figlio, sia per te che sei uomo e trovi dentro di te cose che non avevi mai scoperto, non sapevi che c'erano, che un figlio ti tira fuori. Insomma, Valeria ci sta dicendo che le nuove mamme sono quasi più fortunate. Ma intanto mi veniva da fare una battuta. Sai quando si diceva dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, adesso dietro a una grande mamma c'è sempre un grande papà. Ma va benissimo così, è vero, in realtà è vero. Ed è tanto vero, una percentuale di risposte molto significativa per la divisione delle incombenze dice il 35% si accorda, no, per fare quello che sente più suo. E non è di proprio, capisci? Sì, non è la divisione del ruolo, no? Non è solo, dice, tu fai, io cucino, tu spazi e tu prendi il bambino, io esco. No, è anche quello che sente più suo. Quindi riconoscendo ad entrambi i genitori, perché qui poi alla fine è una coppia. Si gioca che in coppia. Si certo. Gioca assolutamente in coppia, riconoscendo un ruolo anche emotivo dell'accudimento, sempre di più. Poi, è vero, c'è anche un 21%, perché mi piace anche ricordarlo, c'è un 20% che lascia totale autonomia ai papà, fai quello che vuoi, sì. E c'è un altro 21% che dice va bene, però si censura le critiche, che è uno sforzo riconosciuto, e sì, tutto sommato va bene anche questo, no? Un grande sforzo. Professoressa Veggetti Finzi, uno sforzo ne vale la pena comunque? Ma sicuramente, perché le volte la generazione precedente, in fondo, quella che aveva fatto il femminismo, pretendeva dagli uomini che facessero i padri e imponeva un po' loro, non lasciavano il comando, non si fidavano mai. Io come psicologa della famiglia ho seguito per anni delle diatribe dove lei lo pesava, poi lo pesava lui, poi lo ripesava lei, questo mi riferisco al neonato, no? Sì. Ecco, perché il neonato ha imparato a camminare rapidamente, sì, per togliersi da questo peso. Sicuramente. No, era un continuo confronto per vedere chi era migliore dei due. Ora questa litigiosità sicuramente è venuta meno, si aiutano, e poi la cosa nuova è stata detta precedentemente, che i padri hanno capito che è una cosa da cui si può trarre piacere. Non è necessario farla per dovere, si può farla per piacere, perché è bello stare con i bambini, ti danno soddisfazione, ti appagano affettivamente, e questa è stata una grande scoperta che ha sciolto poi il rapporto tra i due genitori e l'ha reso molto più fluido. E noi continueremo a parlare di nuove mamme, dei loro sogni, delle paure, perché ci sono anche quelle, dei desideri e perché no, delle difficoltà, perché nonostante oggi le nuove mamme si raccontano e sentiremo proprio il racconto dalle loro interviste, molto più consapevoli, in prima persona vivono il loro nuovo ruolo, sicuramente ci sono ancora e forse ci saranno sempre delle fatiche, delle cose non dette. Restate con noi, allora ne parleremo nel corso della trasmissione con Valeria Covini, la professoressa Veggetti Finzi e il nostro pilastro Alberto Pellai, che parlerà in nome dei papà. Una mela al giorno. E do il benvenuto al nostro consueto ospite del venerdì, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro DDS di Settimo Milanese, che è un papà. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi non è in studio, ma è pronto per parlarci di attività fisica. Sì. Per le mamme bisogna, è un modo anche, sì, esatto, bisogna anche un modo per non solo per tenersi in forma ma anche per staccare la spina. Allora con lei farei un viaggio nell'attività fisica così salutare anche nei mesi della gravidanza. Dottor Confalonieri. Va bene, dunque durante la gravidanza non possiamo fare moltissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, per ovvie ragioni di tipo meccanico, se vogliamo. Vede che lei usa già il plurale perché lo vede già in forma di coppia, o perché sei immedesimato, o perché? Perché vivo la coppia in modo totalizzante, quindi uso il bravo, noi. Bravo. Va bene. Sì, usi, mi piace così, usi il noi. Va bene, e quindi dobbiamo limitarci ovviamente a tutte le attività in acqua, perché in acqua, non essendoci il peso, rimane un problema molto relativo, quello della gravidanza e quindi possiamo muoverci con una certa facilità. E abbinare queste attività sia di nuoto che di ginnastica in acqua con delle attività specifiche di rafforzamento possibilmente della muscolatura della schiena, sia come ginnastica come tale, magari isometrica, cioè di tipo posturale che non prevede movimenti particolari, sia eventualmente avvalendoci dell'elettrostimolazione di queste tecniche. Senta, andiamo al, al post-gravidanza. Nasce il bambino, c'è una fase molto importante, il periodo dell'allattamento, le mamme desiderano ritornare in forma, l'attività fisica in questa parte della vita fa bene? Fa benissimo, c'è già uno stress non indifferente in questa fase per adattarsi ai nuovi ritmi di vita e quindi io la introdurrei molto gradualmente con molta prudenza, sì, proprio per non aggiungere stress allo stress, quindi non lo vedrei come un'imposizione, come un compito da sviluppare, ma come il soddisfacimento di un desiderio. E da questo punto di vista direi che l'ideale è proprio l'attività primaria, la prima fra tutte le attività, cioè camminare. E camminare ci fa assolutamente bene, lo possiamo fare con il bambino, sì, è un'attività che ridà tono a livello muscolare, che è estremamente efficace anche a livello del tono dell'apparato cardiovascolare e dell'apparato respiratorio. Quindi il mio input nei primi mesi è camminare, seguendo però l'istinto. Quando proprio sentiamo questo desiderio, prendiamo il bambino e partiamo. Tante volte poi le mamme iniziano a riprendono a fare sport quando i piccolini iniziano a frequentare magari i giardinetti, oppure adesso inizierà la stagione sugli sci, per cui mettono gli sci. Anche quello è un buon modo sia per tenersi in forma, ma per così stringere un legame ancora più forte col proprio bambino. Sì, direi che c'è tutta la fase ancora precedente, che è quella della lotta con il bambino, che io amo molto e che consiglio sempre, e che è anche un ottimo esercizio. Quella la lasciamo ai papà, mentre noi mamme... Parlo sempre del noi, quindi sì, mi vedo insieme alla mamma, insieme al bambino a fare queste cose che sono estremamente allenanti, estremamente belle ed estremamente gratificanti. Dottor Confalonieri, grazie per essere stato con noi, e noi ci risentiamo e ci rivedremo venerdì prossimo per una nuova puntata dedicata all'attività fisica. Dottor Confalonieri, grazie. Buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. E allora diamo voce alle mamme. Sono state intervistate da Insieme e alla risposta rispondono alla domanda come sono rinate nel ruolo di mamme. Ascoltiamo le loro testimonianze e poi le commentiamo insieme ai nostri ospiti. Mamme si diventa, un pochino si è dentro, però secondo me si diventa, non è che si è mamme o non si è. Non è per modestia, però mi sono sempre sentita nata per fare la mamma. Sì, sì, sì. Per me, io la sensazione che ho avuto è che ho azzerato la mia vita e ho ricominciato la mia vita. Cioè, è come se Anna fosse nata il 7 gennaio del 2008, non l'8 giugno del 77. Sono proprio rinata. No, assolutamente no. E io penso ancora di non essere... come si dice, non credo di essere una mamma, cioè uno dice uno nasce mamma, cioè se lo sente da dentro, no, io mi sento come se fossi, se avessi ancora 18 anni, 20 anni, con una bambina, consapevole che sì, ho una bambina, me la devo portare dietro, le mie cose me le devo fare comunque in conseguenza ai suoi orari, alle sue esigenze, però non mi sento mamma. Vabbè, già nel momento in cui ti dicono di aspettare un bambino, io penso che in quel momento lì inizia la grande storia. Perché mamme non lo si nasce, secondo me lo si diventa giorno dopo giorno. Allora Valeria, come direttore di Insieme, le mamme vi raccontano anche con le loro lettere come si sentono mamme, ma si nasce o si diventa mamma? Cosa dice la ricerca? Cosa ti raccontano le lettrici? Dunque, la ricerca e le lettrici e anche queste mamme del confessionale che abbiamo incontrato e continuiamo a incontrare ci raccontano che non c'è una ricetta unica per tutte, come non ci sono donne uguali una all'altra, ma la maggioranza riconosce il fatto che non c'è un cuore di mamma che sboccia d'improvviso, non sempre, non per tutti. È il famoso lato B in cui si diceva, sì, no? Cioè, attenzione, queste mamme sono serene, sono consapevoli, eccetera, ma però questo, dietro questo ma si nasconde anche la consapevolezza di dover imparare a fare la mamma in qualche modo. E noi continueremo a vedere come si impara a fare la mamma, e ci sono anche dei sensi di colpa. Le mamme a volte possono anche sentirsi inadeguate. Pensiamo magari alla nascita del secondo figlio. Tante volte la professoressa Vegetti Finzi, abbiamo parlato, mamme che sono in attesa del secondo figlio e si domandano: ma sarò brava come con il primo? Gli vorrò bene? Riuscirò a barcamenarmi tra i vari impegni? Ci siamo tornati insieme in una puntata tutta dedicata alle mamme, ai loro sogni, alle loro paure, ai loro desideri. In studio con me Valeria Covini, direttore di Insieme, Alberto Pellai, in linea abbiamo la professoressa Vigetti Finzi. Ma prima di continuare a parlare di mamme, diamo spazio alle novità che ci arrivano dal mondo della ricerca. Parliamo di allergie. In questo caso si potrebbe dire: non tutto il male viene per nuocere. Ad esempio, essere allergici potrebbe offrire una sorta di protezione nei confronti dei tumori. Per saperne di più è in linea con noi il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Questa è una ricerca fatta a New York, esaminando più di 600 studi che sono stati pubblicati negli ultimi 50 anni. Ricercatori della Cornell University hanno messo in evidenza una relazione inversa tra allergie e certi tumori, cioè più allergia, meno tumori. Ed è una relazione che sembra vera per quei tumori che colpiscono organi o apparati dove si manifestano facilmente reazioni allergiche, vie aeree, colon e retto, cute, cervice uterina, pancreas e certe cellule del cervello. Sono esposte a minor rischio di cancro quei tessuti che vengono a contatto con gli allergeni dell'ambiente. Invece non si trova la stessa relazione tra allergie e tumori nei tessuti più isolati, come per esempio la mammella, la prostata, i tumori maligni del sangue, che vengono a contatto questi tessuti meno facilmente con gli allergeni dell'ambiente. I ricercatori spiegano così: la relazione tra allergia e tumori potrebbe essere determinata dal fatto che la reazione allergica allontana particelle di sostanze potenzialmente cancerogene. Professor Remuzzi, quindi questa in parte potrebbe essere una buona notizia, ma immagino ci possa essere anche un risvolto negativo. In effetti c'è un'eccezione a questa relazione che è stata trovata, cioè più allergia, meno tumori. Questa relazione non funziona per il tumore del polmone, e la spiegazione, secondo i ricercatori, non è certamente sicuro, ma loro hanno azzardato un'ipotesi. L'asma ostruisce le vie aeree, impedendo di espellere le sostanze cancerogene inalate con l'aria nei polmoni. Professor Remuzzi, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci aiutato a leggere questa notizia. Le auguro una buona giornata. Buona giornata a voi. Che mamma, che tipo di mamma siete? Come vi giudicate? Come vi raccontereste? Diamo la parola alle mamme che sono state intervistate in occasione della presentazione di questa ricerca svolta da Insieme. Sono una mamma, buona, cattiva no, normale, una mamma della media. A volte mi vengono i sensi di colpa, il lavoro, sta tutto il giorno fuori casa, a volte non sai come gestire una situazione, spesso mi ci sento inadeguata, e però tutte le persone che mi stanno intorno poi mi fanno rendere conto del contrario, e anche mia figlia poi mi fa rendere conto del contrario quando poi mi abbraccia, insomma mi fa capire che mi vuole bene, che gli manco, quindi a quel punto dicono: allora va tutto bene, allora ho fatto bene così. Io sono brava per me stessa, ma per mio marito, secondo me, non lo so, poverino. Lui anche è stato bravo a recepire tutte le cose che io ho cercato di fargli capire. Cioè, io continuo, è una continua lotta, e lui, poverino, è lì che subisce, perché io ci tengo molto a una famiglia unita. Penso che sia l'unica cosa che ci resta veramente. Io faccio di tutto per essere una buona mamma, me lo dirà un giorno mio figlio con i suoi comportamenti, con l'educazione che avrà, con l'amore che avrà nel fare le cose e con il rispetto che avrà degli altri. Lo saprò quando mio figlio mi farà vedere allo specchio quello che io gli ho dato. bisogna darsi del tempo, bisogna prendersi i propri tempi e cercare di capire le esigenze del bambino, quello di cui ha bisogno, cercare di interpretare il pianto, cosa che io comunque ancora non ci sono riuscita, però cercherò, ci proverò, tanto ho tutta una vita. Qualcuno dice che mi sono rivelata, insomma, una brava mammina, perché nei miei modi di fare, gli accorgimenti che ho con il bambino, tutte le accortezze. E poi io dico sempre, sarà un mio capriccio che il mio primo bambino è mio marito. Professoressa Vegetti Finzi, ascoltando la testimonianza delle mamme, a caldo, che cosa le viene da dire, da commentare? Sono mamme più serene, più sicure di sé? Devo dire che, contrariamente alla tradizione che voleva la mamma intuitiva, che non si interrogava mai, perché tanto per il fatto solo stesso di aver avuto un figlio si considerava competente, ora le mamme, come avete sentito, si interrogano, sono mamme problematiche, mamme che si oscultano, che si osservano e quindi pronte a recepire. Danno valore al marito, però, come diceva l'ultima, lo considerano anche il primo dei loro figli, quindi sono donne anche capaci di autoironia, direi sono mamme mature. Alberto, ti senti il primo dei figli di tua moglie? Ma non lo so, non credo, però bisognerebbe sentire lei. Stavo ascoltando quello che diceva la professoressa Vegetti Finzi e credo che comunque questa rete di donne, per esempio, che diventano mamme, che si sanno consigliare, in qualche modo vale anche per i nuovi papà, cioè sempre più stanno uscendo dall'idea che il tuo lato paterno non è condivisibile con gli altri uomini, sanno parlare della loro paternità, e secondo me è bellissimo quello che succede nei corsi di preparazione al parto, dove un tempo c'era qualcuno che ti insegnava il modo di dover essere genitore, e attualmente invece il valore del corso di preparazione al parto non è più la comunicazione verticale dall'esperto al futuro genitore, ma è quella orizzontale, cioè si va a un corso di preparazione al parto per parlare tra genitori, tra futuri genitori, e raccontarsi non tanto il come si fa, ma il come si è, il come si sta, che è una dimensione completamente diversa e molto più utile anche per prepararsi al ruolo di genitore. Valeria, stiamo sottolineando le luci, no, di essere mamma oggi, ci sono anche delle ombre. Sì. Ci sono donne che dopo la gravidanza entrano in crisi, in forte crisi, in alcuni casi si parla proprio di depressione. Allora mi chiedevo se nel tuo giornale, il giornale come il tuo, dove viene sottolineata e viene data l'opportunità alle donne di scambiarsi storie, emozioni, paure, è possibile in qualche modo fare una sorta, mettiamole dovute virgolette, di prevenzione, di sensibilizzazione culturale? Che cosa raccogliete? Ma senz'altro, adesso, prevenzione ci vorrebbero tante belle virgolette, tante, ma certamente l'abitudine a parlare di questi problemi è già un inizio di prevenzione, come certo. Sappiamo. Quello che è importante è far vedere che la depressione non è, cioè gli elementi iniziali di questa depressione, che in genere sono quelli sottovalutati, certo. E da un lato, e dall'altro dare però degli strumenti a chi è intorno a queste mamme per saperli riconoscere, e dargli una mano. Professoressa Vegetti Finzi, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, riusciamo insieme anche ad Alberto Pellai, le do anche il sostegno di un papà che tra l'altro è un addetto ai lavori, individuare quelli sono per la donna i segnali di allarme, mentre Alberto racconterà quelli che invece devono essere percepiti da chi vive intorno alla donna. Professoressa Vegetti Finzi, rapidamente facciamo una sorta di decalogo, e così ad Alberto. Ma io direi innanzitutto che abbiamo constatato come psicologi, e io in particolare, una stretta relazione tra la modalità con cui sono stati vissuti gli ultimi mesi di gravidanza e il postpartum. Tanto più la donna ha trascurato di pensare, riflettere, meditare o anche attendere il bambino mentalmente, tanto più poi si troverà sprovveduta al momento dell'incontro. E questo dell'incontro è uno dei motivi più importanti emersi dall'inchiesta di cui stiamo parlando. Inoltre, sintomi dal punto di vista materno, sì, di una certa depressione sono sentirsi stanca più del lecito. So bene che dopo un parto, magari anche dopo un parto cesareo, ci si stanca facilmente, però tante volte questa donna non ha proprio voglia di alzarsi, di accudire il bambino. bambino, una certa anaffettività, direi, la tendenza a sottolineare tutto in negativo, pianti frequenti, inappetenza, direi appunto sottolineatura degli aspetti più faticosi, negativi, tipo il dolore per i primi giorni di allattamento viene ingigantito. Direi che queste donne soffrono soprattutto di solitudine. Questi sono un po' i campanelli d'allarme, continueremo a parlarne. Andiamo subito con il nostro consiglio di lettura, ve l'avevo anticipato. Il titolo del libro di oggi è Confessione di una mamma pericolosa. Pedagogia spericolata per bambini da 0 a 3 anni. Potete riceverla a casa grazie all'iniziativa con Internet Bookshop. Per poter ricevere a casa questo libro dovete mandare un'email con il titolo, i recapiti e il numero di telefono. Naturalmente dovete essere molto veloci perché il libro arriva a casa al primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta elettronica. In collaborazione con IBS.it. Alberto, neomamme, ma mamme anche in crisi, proprio per quando iniziano a vivere questo nuovo ruolo. La professoressa Veggetti Finzi ha già sottolineato alcuni aspetti su cui fare attenzione. Tu come papà e come esperto di prevenzione, dai consigli mirati e pratici ai papà. Ma i papà rimangono molto colpiti quando in casa entra una tristezza grande dopo la nascita, perché pensavano che l'ingresso del bambino in casa avrebbe portato la luce, invece improvvisamente tutto cade nel buio. La depressione è proprio questa immagine di nero che si diffonde nella casa, dove non riesci più a trovare le parole per raccontare quello che sta succedendo, il silenzio diventa molto più preponderante rispetto invece al rumore, alla gioia, alla voglia di stare insieme. E tra l'altro i papà si spaventano, questo è un fattore che aggrava proprio la depressione delle mamme, perché affaticati dall'emozione negativa della mamma, loro fuggono, non riescono davvero a sostenere invece un ruolo di conforto, un ruolo di tutela, un ruolo di accompagnamento. Mi sentirei di dire ai papà che lo sblocco fondamentale è stare lì dove c'è la fatica emotiva, stare lì dove c'è il silenzio, portare la luce dove è arrivato il buio. Basta un mazzo di fiori, basta sedersi sul divano senza dover fare nulla, semplicemente sapendo che si è una protesi emotiva per chi sta attraversando una tempesta, che è anche ormonale, ecco, perché c'è una base fisiologica, saper prendere in braccio il bambino e direi saper accompagnare, ecco. Probabilmente Valeria Covini le ha proprio un po' fotografate, direi che le nuove mamme che possono anche... Accompagnate mamme da 30 anni, tra l'altro. Sì, il prossimo anno compiamo 30 anni, mi viene sempre un'emozione fortissima vedere la prima copertina d'Insieme, che è proprio fotografa un primo parto naturale al Buzzi, qui di Milano, dove c'era la triade, no? Mamma, bambina e papà insieme per la prima volta, insieme. E noi, non so quale sarà ovviamente la copertina dei 30 anni, però so qual è la nostra missione. Certo. Che è in quella... 30 anni ne avete tenute veramente, no? Siete stati in sala parto, avete accompagnato anche i bambini all'asilo, alla prima, sì, elementare, insomma avete ormai accompagnato quella bambina mamme. Che si chiama Viola, ha due bambini, ecco. però quello che è cambiato è proprio questo: durante queste generazioni che sono passate, il ruolo di Insieme è adesso quello di essere assolutamente un alleato delle mamme, non più qualcuno che dall'alto dice come deve fare, ma che dice come assolutamente suggerisce modalità di comportamento. E io, professoressa Veggetti Finzi, quando Valeria Covini dice suggerisce, mi vengono in mente i suggerimenti delle nonne. Adesso anche le nonne sono più preparate e suggeriscono rispetto, forse atteggiamenti, pensieri, forse più a misura di mamma rispetto al passato. Lei ne parla anche con autrice di Nuovi nonni per nuovi nipoti. Sicuramente qualche cosa in più di questi nonni sa dircelo. Ma sicuramente uno dei temi principali, appunto, è soprattutto nel rapporto madre-figlia, perché è più stretto, più quotidiano rispetto a quello che si ha con la nuora. La figlia è un po' insofferente rispetto ai consigli della propria mamma, della nonna, del bambino, perché teme di essere prevaricata, è molto gelosa della sua autonomia e quindi bisogna tante volte stare attenti a non dare troppi consigli, soprattutto a saper ascoltare e dare i consigli che sono richiesti, perché le loro mamme sono molto gelose della propria intimità, hanno paura che le nonne prevarichino, anche perché sono costrette dal fatto di lavorare a lasciare per molte ore il bambino alla nonna e nello stesso tempo si fidano, glielo lasciano volentieri, ma hanno paura che poi il bambino in un certo senso riconosca nella nonna la vera mamma. Quindi io dico alle nonne, cercate di mordervi la lingua quando vi viene da dare un consiglio non richiesto, soprattutto di non proporre le vostre esperienze, anche perché in questi anni il modo di allevare i bambini è molto cambiato. Basta pensare al fatto che le nonne attuali lavavano i pannolini del bambino, avevano il famoso filtrante, cirippà e fasciante, adesso le mamme hanno i pannolini usa e getta, certo. E adesso allattano. Quindi professoressa, bisogna dire alle nonne in ascolto, parlate solo se interrogate, ma ascoltate, rendetevi disponibili? Questo mi sembra il messaggio più, fate un passo indietro, sappiate fare un passo indietro, ricordatevi che la mamma non siete voi, aspetta ai genitori educare i figli, dare le regole, lo stile di vita, prendete per voi il piacere, prendete per voi la gioia, il gioco, il divertimento, l'immaginazione, lasciando tutto l'aspetto normativo ai genitori. Tu come papà? Ma mi sento di dire che io come futuro nonno, probabilmente ai papà risulta più facile potersi, sì. Tantissimi uomini proprio diventando nonni si godono il bello della loro nonnità e riescono a non essere invasivi e intrusivi. Io direi comunque che bisogna salvaguardarli questi nonni, perché sono veramente un ammortizzatore sociale. Oggi non c'è, con il caro asili, con, sì, la mancanza di supporti alle famiglie, infatti le nostre lettrici sono nei guai quando mancano i nonni perché sono lontani, quindi i nonni quando ci sono sentiamoli almeno come grande supporto, sì, per la famiglia. Sì, io poi penso che un bambino che ha la fortuna di crescere con i nonni vicini, è con bellissimo. Questo serbatoio d'affetti, è un bambino ricco. Io prima di salutare i miei ospiti voglio salutare con una poesia di Vivian Lamarck, poetessa nonna, scritta proprio in occasione della nascita della sua nipotina, poesia che noi abbiamo tratto dal libro di Silvia Vegetti Finzi. L'ascoltiamo, poi salutiamo i nostri ospiti e andiamo poi a delle buone notizie, sempre per i nonni. Rosa come di bosco, Rosellina rosa, ride la bambina nuova Micolla, chiara sia la sua notte e senza vento, usignoli a mille, un meeting tutto per lei. Gentile luna, dille una gentile cosa, esempio, buona la tua notte, e poi a fine turno dille anche buongiorno, per un sempre di mattini. Oh, che l'infanzia duri più che neve. Allora saluto e ringrazio Valeria Covini, grazie per essere stato con noi, per averci fatto esplorare questo universo di nuove mamme. Un saluto caro e un ringraziamento alla professoressa Vigetti Finzi che ci accompagna sempre in queste puntate, insieme anche a questa ad Alberto Pellà, in questa casa non è un albergo, in cui ci dà delle indicazioni, dei suggerimenti pratici, dei pensieri su cui lavorare. Grazie professoressa. Grazie a voi, è un grande piacere. Ad Alberto saluto a metà, perché noi ci troviamo domani. Per questa casa non è un albergo, quindi un ciao a metà. E invece saluto Alessandro Pellizzari, che è in linea con noi, vice caporedattore di Star Bene. Alessandro, benvenuto. Grazie, eccomi qua. Alessandro, c'è una buona notizia per i nonni in ascolto. Abbiamo parlato anche di nonni, parlando di mamme, c'è un numero verde per i nonni di tutta Italia. Esatto, perché se è giustissimo quello che avete detto, i nonni sono importantissimi per prendersi cura di tutta la famiglia, anche noi dobbiamo prenderci cura dei nonni, soprattutto quelli lontani. E ci pensa l'Auser, che ha istituito questo numero verde, questo filo d'argento, che permette, telefonando al numero verde 800 99 59 88, di avere tutta una serie di servizi che vanno dalla semplice compagnia telefonica, sì, di una chiacchierata amichevole con un nonno fa sempre piacere, certo, fino all'accompagnamento dal medico, quindi anche spesa, non solo consigli ma anche aiuti concreti, pratiche, la spesa, andare a comprare i farmaci, il trasporto protetto, quello che si dice appunto, con un accompagnatore. Allora, questa è una buona notizia per i nonni in ascolto. 899 59 88, il numero del filo d'argento Hauser. Alessandro Pellizzari, noi ci sentiamo presto, buon lavoro anche a te. Buon lavoro a tutti. E buona giornata a chi ha ascoltato il nostro programma. Appuntamento domani per Questa casa non è un albergo a mezzogiorno, mentre con la salute riprendiamo a sentirci lunedì dopo il GR delle 11. Buona giornata, un saluto alle mamme e un saluto particolare ai nonni da Nicoletta Carbone.